Terzo anello, ad alta voce, L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson. Lo stesso sibilo che aveva allarmato me e mia madre mentre contavamo i denari del capitano si fece riudire ancor più chiaramente attraverso la notte, questa volta ripetuto due volte. Io avevo pensato che fosse un surrogato di segnale di tromba del cieco per ordinare alla sua ciurma l'assalto, ma adesso scoprì che proveniva dalle falde della collina in direzione del villaggio, e a giudicare dall'effetto sui filibustieri era un segnale per metterli in guardia contro un pericolo imminente. «Di nuovo Dirk!» osservò uno. «E due volte! È il caso di battersela, compagni!» «Battersela, eh! Vigliacconi!» gridò più. «Quel Dirk non è mai stato altro che un fesso e un vigliacco! Non dategli retta! Devono essere da queste parti, non possono essere lontani! Ci siete addosso! Sparpagliatevi e cercateli, figli di cani! Accidenti a me! Se soltanto avessi i miei occhi! Avete sotto mano un tesoro, scimuniti che non siete altro, e ve ne state con le mani in mano! Sareste ricchi come nababbi se lo trovaste! E sapete che c'è, ve ne state lì a far flanella! Non c'è stato uno che osasse affrontare Bill, se non io, un cieco! E dovrò perdere la mia fortuna per colpa vostra, dovrò continuare a fare il povero ciechino che striscia per scroccare una bevuta, mentre potrei viaggiare in carrozza! Se aveste un briciolo di coraggio riuscireste ancora a scovarli! Va all'inferno, più che abbiamo i dobloni! Borbottò uno. Devono averla nascosta quella maledetta roba, disse un altro. Tienti le sterline, più, e smettila di sbraitare. Sbraitare era il termine esatto, tanto era montato in bestia più a quelle obiezioni. Alla fine la collera lo soverchiò a tal punto che cominciò a menar botte a casaccio, a destra e a sinistra, e il suo bastone colpì più di uno di quegli uomini. Questa zuffa fu la nostra salvezza, perché mentre continuava a infuriare, un altro rumore giunse dalla cima della collina in direzione del villaggio. Lo scalpitio di cavalli al galoppo. Quasi nello stesso istante il lampo e la detonazione di una pistola partirono dal lato della siepe. Quello era evidentemente l'estremo segnale di pericolo, perché i filibustieri fecero un immediato voltafaccia e se la dettero a gambe, disperdendosi in ogni direzione, chi verso il mare, giù per la baia, chi di traverso, su per la collina, cosicché in mezzo minuto non ne restò, salvo più, la benché minima traccia. Se l'avessero abbandonato per effetto del panico o per vendicarsi delle ingiurie e dei colpi, non so. Fatto sta che rimase lì, a tempestare, frenetico, su e giù col bastone, brancolando e chiamando i compagni. Alla fine sbagliò direzione e passò veloce a pochi passi da me, alla volta del paese, urlando: «Ma ciccia! Cane nero! Dirk! Non abbandonerete il vecchio più! Compagni! Il vostro vecchio più!» Proprio in quel mentre, il rumore della cavalcatura oltrepassò il crinale e quattro o cinque cavalieri comparvero al chiarore della luna e si lanciarono al galoppo, giù per il pendio. Allora più si avvide del suo errore. Si voltò con un urlo e corse dritto verso il fossato, ruzzolandoci dentro. In un attimo si rialzò e, disorientato com'era, fece un altro balzo che lo portò proprio sotto il più vicino dei cavalli sopraggiungenti. Il cavaliere tentò di salvarlo, ma invano. Più cadde con un urlo che salì alto nella notte e i quattro zoccoli lo calpestarono e lo buttarono da parte, oltrepassandolo. Ricadde su un fianco, poi si accasciò mollemente bocconi e non si mosse più. Thank you. Io balzai in piedi e detti una voce ai cavalieri. Essi stavano già arrestandosi ad ogni buon conto, inorriditi dal caso, e io subito li riconobbi. Uno di loro, che si teneva in coda dietro agli altri, era il ragazzo partito dal villaggio in cerca del dottor Livesey. Gli altri erano doganieri che aveva incontrato per via, coi quali aveva avuto l'accortezza di tornare indietro immediatamente. Qualche voce sul bastimento della tana di Kit era pervenuta all'ispettore Dance e lo aveva indirizzato quella sera stessa dalle nostre parti. E fu in virtù di tale circostanza che mia madre ed io scampammo alla morte. Pew era morto, morto stecchito. Quanto a mia madre, non appena trasportata su al villaggio, bastarono un po' di acqua fresca e di sali per farla rinvenire. E per lo spavento provato non se la cavò poi troppo male, quantunque continuasse ancora a rimpiangere di non aver regolato i suoi conti. Frattanto l'ispettore era filato a gran galoppo alla tana di Kit, ma i suoi uomini erano stati costretti a smontare e scendere a tentoni giù per il fosso, conducendo e a volte sorreggendo i propri cavalli per il continuo timore di imboscate, cosicché non può meravigliare se quando giunsero in fondo alla tana il bastimento aveva già levato l'ancora, quantunque fosse ancora assai vicino. L'ispettore lo chiamò. Una voce gli replicò avvertendolo di tenersi fuori del lume di luna se non voleva buscarsi del piombo, e al contempo una pallottola fischiò rasente il suo braccio. Poco dopo il vascello doppiò il promontorio e scomparve. Il signor Dance rimase lì, per dirla con parole sue, come un pesce fuor d'acqua, e tutto quanto poté fare fu di spedire un uomo ad avvertire il cutter della dogana. Ritornai con lui all'Admiral Bembo e non si può immaginare in quale stato di rovinio trovassi la casa. Il signor Dance non riusciva a capacitarsi della cosa. Il denaro l'han preso, dici tu. E allora, Hawkins, che cosa diavolo cercavano ancora? Altro denaro, forse? No, signore, denaro no, non credo. In verità, signore, credo di averlo in tasca io, quel che cercavano. E per dirla schietta, desidererei metterlo al sicuro. Certo, più che giusto, ragazzo mio. Lo prenderò in consegna io, se credi. Io pensavo veramente che il dottor Livesey... Cominciai. Perfettamente, interruppe lui con convinzione. Perfettamente. Un gentiluomo e magistrato. E ora che ci penso, sarà meglio che arrivi fin là anch'io e faccia il mio rapporto a lui e al cavaliere. Mastro Pew è morto, dopo tutto. Non che lo rimpianga, ma è morto, come vedi, e la gente potrebbe usarlo come pretesto per dare addosso a un ufficiale della dogana di Sua Maestà. Ecco che cosa ti propongo, Hawkins. Se ti va, ti prendo con me. Cavalcammo rapidi per tutto il percorso e non ci arrestammo che alla porta del dottor Livesey. La facciata della casa era totalmente buia. Il signor Dance mi ordinò di saltare a terra e bussare. Doggar mi porse una staffa per smontare. La porta ci fu aperta quasi subito dalla cameriera. «C'è il dottor Livesey?» chiesi. Mi rispose di no, che tornato a casa nel pomeriggio era poi salito al castello per pranzarci e passare la serata con il cavaliere. «E allora andiamo là, ragazzi!» disse il signor Dance. Arrivati al castello del cavaliere, il servo ci guidò lungo un corridoio ricoperto di tappeti, all'estremità del quale ci fece entrare in una vasta biblioteca, piena di scaffali, su cui erano collocati dei busti, dove trovammo il cavaliere e il dottor Livesey, seduti, pipa alla mano, di fronte a un bel fuoco. Non avevo mai visto il cavaliere così da vicino. Era un pezzo d'uomo, alto quasi 6 piedi, e largo in proporzione, dalla fisionomia brusca, vivace e rude, tutta arrossata e solcata di rughe dai lunghi viaggi. Le sue sopracciglia nerissime si muovevano rapide e ciò gli dava un'espressione un po' irritabile, non cattiva, direi, ma risentita e altezzosa. «Fatevi avanti, signor Dance!» disse con molta maestà e condiscendenza. «Buonasera, Dance!» disse il dottore con un cenno. «E buonasera a te, amico Jim. Qual buon vento ti porta qui?» Thank you. L'ispettore si mise rigido sull'attenti e fece il suo rapporto, quasi recitasse una lezione. Molto prima che il racconto finisse, il signor Trelawney, ricorderete che era questo il nome del cavaliere, era balzato dalla sedia e misurava a gran passi la sala. E il dottore, quasi per ascoltar meglio, si era tolto la parrucca incipriata e se ne stava lì con l'aspetto più buffo del mondo, con la sua capigliatura autentica nera rapata a zero. Finalmente il signor Dance terminò il suo rapporto. «Signor Dance!» disse il cavaliere. «Siete un magnifico collaboratore! E quanto l'aver pestato quel perfido, atroce, scellerato, lo considero un atto meritorio come schiacciare uno scarafaggio! Questo nostro gin, poi, è un asso di briscola, quel che vedo! Hawkins, vuoi suonare con questo campanello? Il signor Dance vorrà gradire un boccale di birra!» «Dunque, Jim», disse il dottore, «l'hai nelle mani tu allora quel che stavamo cercando?» «Eccolo, signore», dissi io, e gli consegnai il pacchetto di tela cerata. Il dottore lo rigirò nelle sue mani, come se le dita gli bruciassero dalla voglia di aprirlo, ma invece di aprirlo se lo mise tranquillamente nella tasca della giacca. «Cavaliere», disse, «quando Dance avrà bevuto la sua birra, gli toccherà evidentemente di rientrare al servizio di Sua Maestà. Ma io avrei intenzione di trattenere Jim Hawkins qui e farlo dormire a casa mia. E col vostro permesso proporrei di fargli portare il pasticcio freddo e dargli da cena.» «Come volete, Lirsi», disse il cavaliere. «Hawkins si è guadagnato ben altro che un pasticcio freddo.» «Dunque, cavaliere», disse il dottore. «Dunque, Lirsi», disse il cavaliere nel medesimo istante. «Uno alla volta, uno alla volta», uscì ridendo il dottore. «Immagino che avrete sentito parlare di codesto Flint.» «Sentito parlare? Lo chiamate sentirne parlare? Era il filibustiere più sanguinario che solcasse i mari, Barbanera. Al confronto era un innocentino. Gli spagnoli ne avevano una tale paura che vi confesso, caro signore, di essermi a volte sentito orgoglioso che fosse un inglese. Coi miei occhi ho visto le sue vele al largo di Trinidad e quel vigliaccone di un figlio di ubriaconi con il quale navigavo io rientrò in porto, signor mio, a Port of Spain.» «Beh, ne ho sentito parlare anch'io in Inghilterra», disse il dottore, «ma il punto capitale è questo: aveva o non aveva denari?» «Denari!» gridò il cavaliere. «Non avete sentito il racconto? Di che altro andavano in cerca quei ribaldi se non di denari? Che altro stava loro a cuore se non i denari? Perché cos'altro metterebbero a repentaglio le loro carcasse miserabili se non per denari?» «Questo lo sapremo presto», replicò il dottore. «Ma voi siete così esageratamente infervorato che non riesco a dire una parola. Quel che ho bisogno di sapere è questo. Supposto che io abbia qui in tasca qualche indizio su dove Flint abbia sotterrato il suo tesoro, ritenete che possa essere considerevole codesto tesoro?» «Considerevole, signore!» gridò il cavaliere. «Considerevole tanto che se possedete l'indizio cui alludete, io volo ad armare un bastimento nel porto di Bristol, mi tiro dietro voi e Hawkins e faccio saltar fuori codesto tesoro. Dovessi impiegare un anno a scovarlo.» «Benissimo», disse il dottore, «e allora col consenso di Jim apriremo il pacchetto.» E glielo pose davanti sul tavolo. L'involto era cucito e il dottore dovette tirar fuori l'astuccio dei ferri e tagliare i punti con le forbici da chirurgo. Conteneva due cose: un taccuino e un plico sigillato. «Cominciamo a esaminare il taccuino», osservò il dottore. Sulla prima pagina non c'era che qualche sgorbio, come potrebbe farne chiunque si trovasse la penna in mano e non avesse altro da fare o volesse esercitarsi. Uno era identico al tatuaggio «Billy Bones se ne frega». Seguivano «un signor William Bones pilota», «mai più rum», «la boscata al largo di Panchi» e qualche altro sgorbio, per lo più vocaboli isolati e incomprensibili. Di qui non c'è da tirar fuori un granché, disse il dottor Livesey, continuando a sfogliare. Non ci capisco un H, disse il dottor Livesey. Ma se è chiaro quanto la luce del sole, gridò il cavaliere. Questo è il libro dei conti di quel Manigoldo. Le crocette rappresentano i nomi dei bastimenti che affondavano o delle città che mettevano a sacco. Le somme sono la parte che toccava a quel furfante, il quale, quando temeva un equivoco, aggiungeva, come vedete, qualche precisazione. Al largo di Caracas deve trattarsi di qualche disgraziato veliero abbordato al largo di quella costa. Dio abbia misericordia dei poveretti che l'equipaggiavano sepolti in mare in quei giorni lontani. Perfetto, disse il dottore. Vedete cosa vuol dire aver navigato? Perfetto. E la somma cresce, vedete, man mano che sale di grado. C'era poco più nel libretto, salvo la posizione di alcune località registrate negli ultimi fogli bianchi e una tavola per ragguagliare la moneta inglese, francese o spagnola a un valore comune. Che volpone! Gridò il dottore. Non era tipo da farsi mettere in mezzo lui. E ora, disse il cavaliere, all'altro! La carta era stata sigillata in vari punti con un ditale a uso sigillo, forse quello stesso che avevo trovato in tasca del capitano. Il dottore rimosse i sigilli con gran cura e ne venne fuori la mappa di un'isola. Latitudine e longitudine, fondali, nomi di monti, baie e stretti e ogni altro particolare necessario a condurre una nave a un sicuro ancoraggio sulle sue coste. L'isola aveva circa 9 miglia di lunghezza e 5 di larghezza. Forma si sarebbe detto di un grosso drago rampante, due porti ben riparati e una montagna centrale segnata il Cannocchiale. Vi erano parecchie aggiunte di data posteriore, ma più in vista di tutte tre crocette in inchiostro rosso, due nella parte settentrionale dell'isola, una in quella di sud-ovest, e in più, accanto a quest'ultima, in minuta e chiara scrittura, molto diversa dai caratteri zoppicanti del capitano, queste parole: qui il grosso del tesoro. Sul retro la stessa mano aveva scritto questi ulteriori ragguagli: grande albero, spalla del cannocchiale, direzione nord-nord-est, quarta a nord, isola dello scheletro, est-sud-est, quarta ad est, 10 piedi. Il lingotto d'argento è nel nascondiglio nord. Lo si può trovare per mezzo dell'inclinazione del poggio di levante, 10 braccia a sud della rupe nera che lo sovrasta. Le armi sono facilmente reperibili nella collina di sabbia, punta nord del capo dello stretto nord, direzione est e una quarta nord. Firmato il capitano Flint. Tutto qui. Ma per breve che fosse e a me incomprensibile, riempì di gioia il cavaliere e il dottore. Livesey! Disse il cavaliere. Pianterete su 2 piedi la vostra meschina clientela. Io domani parto per Bristol. Entro 3 settimane, dico 3, dico 2, dico 10 giorni, avremo il miglior bastimento, il fior fiore delle ciurme inglesi. Hawkins ci seguirà come mozzo. Ah, diventerai un mozzo coi fiocchi, Hawkins. Voi sarete il medico di bordo, io l'ammiraglio. Oh, prenderemo con noi Redruth, Joyce e Hunter. Garantisco vento in poppa, traversata lampo, manco l'ombra di una difficoltà a identificare il luogo. E denari a bizzeffe da nuotarci dentro, da giocarceli a scopone per tutto il resto della nostra esistenza. Triloni, disse il dottore, verrò con voi e mi rendo garante della cosa. E così pure Jim. E faremo onore all'impresa. Non c'è che una persona che mi dia da pensare. E chi è costui? Gridò il cavaliere. Ditemi chi è quel cane! Voi, rispose il dottore. Perché non vi riesce di tenere a freno la lingua? Non siamo i soli a conoscere quella carta. Ci sono quei tipacci che stanotte hanno assalito la locanda, gente rotta a tutto. Quegli altri rimasti a bordo del bastimento e altri ancora, ho ragione di temere, non lontano di qui, tutti determinati fino all'ultimo ad acciuffare di riffa o di raffa quel denaro. Nessuno di noi dovrà restare solo finché non saremo in mare. Jim ed io nel frattempo ci terremo collegati. Voi prendete Joyce e Hunter andando a Bristol e nessuno si lasci sfuggire una parola su quanto abbiamo scoperto. Livesey, replicò il cavaliere, portate sempre la nota giusta voi. Sarò muto come una tomba. Thank you.